24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci cari ascoltatori, le 7:23 minuti, buongiorno e ben ritrovati, saluto anche Carmelo Lauricella in regia, oggi l'alpino l'abbiamo congelato forse e tornerà domani. E allora, di cosa parleremo oggi? Torniamo sulla responsabilità civile dei giudici, questo ne parleremo alle 8:30, avremo il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati. Allora, questi giudici che sbagliano devono pagare come un medico che sbaglia, come tutte le categorie che se fanno un errore devono pagare di tasca propria, oppure come dicono i giudici deve pagare lo Stato, perché altrimenti non c'è l'indipendenza della magistratura e soprattutto non possono lavorare con la giusta serenità. Di questo parleremo più avanti, prima però andiamo a vedere che cosa ci propongono come al solito i quotidiani in edicola. Allora, in questo lunedì 6 febbraio, Il Sole 24 Ore, l'apertura del lunedì, il fisco cambia due volte al giorno, si concentra Il Sole 24 Ore nell'edizione del lunedì sulle novità che il governo ora vuole mettere in campo fiscale, proprio il cambiamento del fisco. Poi, vabbè, tutti i quotidiani, la maggior parte, aprono sulla situazione incredibile che si è verificata in Italia, si sta verificando per il gelo, per il caos, per le abbondanti nevicate, per paesi interi che sono ancora isolati. E allora, gelo e caos, richiamo del ministro, così apre il Corriere della Sera. Per Repubblica, il governo sconfessa Alemanno. Il Messaggero, andiamo proprio sulla questione di Roma, basta liti sull'emergenza neve, cancellieri, serve un piano per Roma. Il Quotidiano Nazionale, fino al collo c'è la foto di due persone letteralmente quasi sommerse dalla neve, così come l'Unità, c'è una persona che spala delle macchine, ma si intuisce che siano delle macchine perché sono coperte totalmente di neve. Allarme in Abruzzo, abbandonati. Mentre La Scelta della Stampa è riforme, parte la trattativa, Il Giornale invece Rifondazione, Berlusconi, il centrodestra rialza la testa. Questo è il titolo del giornale. Prima voglio partire però da Twitter, anche noi siamo su Twitter con 24 mattino. Chi ha combinato l'étoile Roberto Bolle? È andato, era a Napoli, ha fatto un tweet di troppo, forse un cinguettio di troppo. Sta di fatto che la polemica oggi è sui giornali. Bolle, anti-clochard, irrita Napoli, quando il tweet crea imbarazzo. Questa è una pagina intera del Corriere della Sera, pagina 23, ma anche sulla Stampa, pagina 18. Bolle su Twitter, senza tetto, simbolo del degrado di Napoli. Ecco, perché che cosa ha scritto esattamente Bolle? Intanto prima ha fatto una foto di un clochard vicino al Teatro San Carlo. E poi ha twittato il seguente messaggio: i senza tetto che si accampano e dormono sotto i portici del Teatro San Carlo, gioiello di Napoli, sono un emblema del degrado di questa città, scena mai vista davanti a nessun teatro, né in Italia né all'estero. Tra l'altro, siccome i caratteri sono limitati, ha dovuto fare due tweet, quindi si può dire recidivo. Lui ha 49.296 followers, che per chi segue Twitter capisce cosa significa, cioè che viene seguito da 49.296 persone, che ovviamente hanno fatto subito partire la polemica, le repliche, tanto che Bolle è stato costretto poi a cancellare il tweet, ma il danno sembrava fatto ormai. Tanto, tra l'altro, Twitter ieri ha colpito anche per un falso, invece, che è stato messo in rete, attribuito a Vendola. Il Quotidiano Nazionale lo mette a pagina 14, mette prima via i clochard da San Paolo e Napoli insorge contro Bolle, e sotto il falso Vendola su Twitter, voglio tanto un figlio. E questo è un emblema proprio dell'impazzimento della comunicazione. 13:49 di ieri, un'agenzia di stampa batte una notizia che suona come pioggia sul bagnato delle facili polemiche per Nicky Vendola, testimonia al politico dell'orgoglio gay, scrive il Quotidiano Nazionale. Perché viene attribuito al governatore della Puglia questa frase: mi sta pervadendo il desiderio di paternità. Gianna Nannini dimostra che non ci sono limiti alla voglia di amare e procreare. Sta di fatto che non era Vendola, era un falso Vendola, tanto che dal suo staff dicono: beh, non è la prima volta. Certo che adesso Nicky Vendola rischia di arricchirsi con le querele che sta facendo contro i falsi che girano e si spacciano per lui e mettono su Twitter queste cose. Sta di fatto che Twitter oggi, il Corriere della Sera, visto che è diventato un mezzo, un media, un mezzo di comunicazione molto importante, anche Massimo Sideri fa un commento, forse Il problema è che se ha senso o meno usare Twitter in questo modo. Sta di fatto che vi voglio dare anche quest'altra segnalazione prima della pubblicità, perché questa è straordinaria. Io l'avevo letta questa notizia in piccolo, una notiziola sui giornali. Oggi il giornale a pagina 13 fa mezza pagina. Noi, insomma, l'uomo più sfortunato della Spagna in questo momento in realtà è un greco di origine, si chiama Kostis Mitsotakis e abita in una cittadina Sodeto, a due passi da Saragozza in Spagna, dove gli abitanti a Natale hanno fatto che cosa? Hanno giocato alla lotteria più costosa e più ricca della Spagna. 5 euro a testa, tutti gli abitanti, tutti hanno messo 5 euro. Lui no. Risultato? Il paese ha sbancato la lotteria con premi per tutto il paese, ma tutti di 400.000 euro a testa, per tutti gli abitanti. Lui no, non aveva messo i 5 euro. Tutti gli abitanti vincono alla lotteria meno uno. E così 250 cittadini, una piccola città, si dividono 100 milioni di euro. E Kostis non ha giocato. Ora lui giura: non me li han chiesti, ero fuori casa, mi avessero bussato anch'io avrei messo 5 euro, anche 20 euro. Sono arrivati fin dal New York Times i giornalisti a intervistare l'uomo più sfigato di Sodeto, sicuramente, di questa cittadina, forse l'uomo più sfigato di Spagna in questo momento, l'uomo che più si deve pentire per una scelta non fatta. Lui non li ha giocati questi 5 euro e così... Poi vedeva, ovviamente dopo la vittoria della lotteria, tutto il paese in festa, tutti, volevano andare tutti, le donne pare dal parrucchiere, ma anche la parrucchiera aveva vinto e quindi ha chiuso il locale, tutti a festeggiare, tranne Kostis Mitsotakis, che viene ritratto a consolarsi con il suo cane. Hanno vinto tutti, ma lui non aveva giocato questi 5 euro. Vabbè. 24 mattino. Siamo qui allora alle 7:36 minuti, gran parte dell'Italia è ancora sotto la morsa del gelo, ci sono interi paesi che soprattutto nel centro-sud sono isolati e si assiste, classico in Italia, a quello che avviene in queste situazioni. Lo scaricabarile, le risse verbali, le colpa mia e colpa tua. Beh, ieri è andato in onda questo di fatto tra il sindaco di Roma Gianni Lemanno e il capo della protezione civile Franco Gabrielli da Lucia Annunziata in mezz'ora, se l'avete visto, rissa tra Lemanno e Gabrielli, a Lemanno che dice siete dei passacarte e la risposta ma andate a spalare, vi abbiamo avvisato dell'emergenza, non è vero non ci avete avvisato dell'emergenza, insomma la classica situazione all'italiana. Oggi Alemanno torna in un'intervista sul Corriere della Sera, pagina 2, dice, intervistato da Ernesto Menicucci, la comunicazione della protezione civile era tutt'altro che chiara, ci ha messo fuori strada, su Roma si parlava per la giornata di venerdì di pioggia mista a neve, di accumuli nevosi solo dalla serata, infatti fino a venerdì mattina temevo di aver dato un allarme eccessivo sospendendo le lezioni a scuola. E sulla domanda è vero che avete declinato l'aiuto offerto da Gabrielli, risponde Alemanno, il mio facciamo da soli era tarato sul basso grado di emergenza comunicato da loro, altrimenti avremmo agito diversamente dotando ad esempio i bus di catene e obbligando fin da subito gli automobilisti ad usarle. Tra l'altro sono scomparsi gli autobus, pare, a Roma venerdì, o comunque gran parte degli autobus. Pare che circoli anche questa leggenda di un autista di autobus che ha fermato tutto dicendo qui è pericoloso e la gente che gli quindi scendete tutti, dobbiamo lasciare il pullman, e la gente che gli urlava a schettino. Vabbè, è successo così. Il ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri fa due interviste al Corriere della Sera pagina 5 e al Messaggero a pagina 3. Il senso dell'intervista per il Corriere della Sera è questo: i sindaci sono i primi responsabili, basta polemiche, pensiamo a lavorare. E dunque, a parte che dice la Cancellieri, non voglio minimizzare, è stata una nevicata non normale, l'hanno visto tutti. L'Italia, il problema è che è un territorio continuamente in manutenzione, ci sono fiumi che esondano appena comincia a piovere, non si fa più la manutenzione dei campi. Ci si trova sempre più a fronteggiare frane e smottamenti. Alla domanda, lei ritiene che il suo ministero abbia reagito in maniera adeguata? Risponde la Cancellieri, sì. anche se tutto si può fare meglio. Abbiamo due sale operative costantemente in funzione. Il mio capo di gabinetto ha attivato un coordinamento con le prefetture. Per quel che riguarda le zone più critiche, dice la cancellieri, sono Forlì e L'Aquila che stanno patendo i disagi maggiori. Al Messaggero, a Roma serve un piano neve, gravissima l'assenza di bus e taxi. Questo appunto è il senso dell'intervista di Mario Aiello, sempre al ministro cancellieri. Sta di fatto che Repubblica la sintetizza così. Repubblica attacca molto Alemanno, Carlo Bonini scrive a pagina 3 addirittura la spiegazione e la responsabilità intera civica e politica di quanto accaduto è tutta sulle spalle di Alemanno, e scrive Carlo Bonini insieme a Giovanna Vitale nell'articolo a pagina 3: era stato allertato, non ha chiesto aiuto, Palazzo Chigi scarica il sindaco. La sensazione però è quella un pochino, cioè che anche le interviste del ministro dell'interno, che dice basta polemiche, questa è la tipica reazione italiana in queste situazioni, basta polemiche, che sia un po' la responsabilità debitata in pratica al primo cittadino. Per esempio Zamberletti è l'ex ministro, il padre fondatore della protezione civile, in un'intervista alla Stampa a pagina 3 dice: beh, nessuno si ricorda una cosa, che il primo responsabile della protezione civile di ogni comune è il sindaco. Anch'io a Roma ebbi uno scontro in passato con il sindaco che mi disse: tu che sei professore della protezione civile, mi vuoi spiegare? E io gli risposi: guarda che io sarò pure il professore, ma tu di certo sei il responsabile. E dunque Zamberletti sentenzia: è il sindaco il maggiore responsabile in ogni situazione, perché il sindaco è il primo responsabile della protezione civile di ogni paese. Intanto, mentre ci sono le accuse, gli scaricabarile, le polemiche, c'è appunto mezza Italia, o comunque non proprio mezza Italia, comunque dal centro in giù, con interi paesi che sono ancora isolati. Ci sono anche i racconti, per esempio, di Paolo Rumiz sulla Repubblica, da Collepiano in provincia dell'Aquila: nei paesi dimenticati da tutti ci scaviamo la strada da soli e ora temiamo l'arrivo dei lupi. Oppure vi segnalo sul Messaggero a pagina 8, ancora 120.000 persone al buio e ora cresce anche l'allarme sull'import del gas. L'Abruzzo è un'altra situazione drammatica, come la situazione drammatica anche quella dei clociari senza tetto. Ieri ancora ci sono in totale 10 vittime, non tutti clociar, c'è anche gente che per spalare la neve è stata colta da infarto e quindi ci ha rimesso la vita. E sono in totale già 23 le persone che sono morte per cause connesse a questa grande gelata che dovrebbe continuare per altri 7 giorni. E il ministro Andrea Riccardi fa un'intervista al ministro per l'integrazione su Repubblica, pagina 7, intervistato da Vladimiro Polchi, dice: assurdo morire di freddo, per il dramma dei senza tetto i comuni devono fare di più. E anche lui manda questo invito del sobrio governo Monti: basta liti, tutti devono impegnarsi. Sta di fatto che l'altra cosa tipica in queste situazioni qual è? Oh, pare che ci siano già segnalati casi in cui la frutta, la verdura, insomma gli alimentari di prima necessità siano aumentati del 200% del prezzo. Questo è l'allarme che l'Unità mette a pagina 5, lanciato dal Codacons, dunque dai consumatori, una delle associazioni dei consumatori. Ci sono rincari del 200%, si chiama speculazione, e questo è il dato di fatto. Certo, ci sono dei problemi legati ovviamente a tanta merce che è andata buttata per questa gelata. Comunque, la situazione è questa. Noi durante la giornata di Radio 24 li teniamo sempre informati per quello che sta succedendo, soprattutto per le zone più critiche. La situazione del gelo è questa in Italia e pare che continuerà a fare freddo almeno per tutta questa settimana, molto freddo. D'altronde è inverno e quindi d'inverno fa freddo. Allora, per quel che riguarda invece la politica, la cronaca, torna in primo piano la questione della riforma del mercato del lavoro. Si riapre un'altra settimana di intese, di tavoli, di discussione. Credo giovedì si vedranno il governo delle parti sociali. Vi sottolineo su questo e vi segnalo un articolo, un'intervista al segretario della UIL Angeletti sulla Stampa, pagina 8, intervistato da Alessandro Barbera. Dice Angeletti: Scriviamo una legge sul licenziamento per i motivi economici, visto che l'articolo 18 riguarda la tutela dei licenziamenti senza giustificato motivo, ovvero quelli discriminatori. Credo che nessuna persona sana di mente voglia e possa togliere questo diritto ai lavoratori, ma se le ragioni economiche per la fine del rapporto ci sono, e nell'articolo 18 sono scritte in un modo che risultano troppo complicate per essere affermate, allora scriviamole queste benedette ragioni. Insomma, apre a una sorta di modifica dell'articolo 18 Angeletti per questa tipologia di licenziamento per motivi economici. Sta di fatto che il tema interessante sul mercato del lavoro, ve lo segnalo dall'articolo del Sole 24 Ore che troviamo in prima pagina. Spesso si dice il lavoro, gli italiani fanno certe tipologie di lavori e certe tipologie di lavori invece non li fanno più. Ebbene, i mestieri che gli italiani non vogliono più fare. Questa è una ricerca della Fondazione Moressa, la Fondazione Leone Moressa per il Sole 24 Ore, sui lavori che gli italiani non fanno più o fanno sempre meno e vengono rimpiazzati per questo dagli immigrati. Quali sono, raccontano Francesca Barbieri e Francesca Padula, pagina 21 del Sole 24 Ore. Ebbene, per un italiano che esce entrano due stranieri tra cuochi, camerieri, baristi, saldatori, montatori, lattonieri, addetti non qualificati nell'industria. Nel giro di 3 anni, dal 2007 al 2010, sono usciti da queste categorie 30.000 italiani, rimpiazzati dal doppio di lavoratori immigrati, 60.000. Mentre invece una situazione perfetta, cioè meno 23.000 italiani e più 22.700 stranieri, nel commercio ambulante tra pittori, laccatori, parchettisti. L'ingresso di immigrati, 142.000, non riesce però a compensare gli abbandoni degli italiani, 330.000, tra magazzinieri, manovali, cassieri e braccianti agricoli. Questi dunque i lavori che gli italiani non fanno più e che vengono per questo rimpiazzati dagli stranieri. Allora, sul Sole 24 Ore di oggi viene già definita la prossima mission impossible per il governo Monti, vale a dire cercare di riformare il fisco per renderlo più facile, semplificare il fisco. Su questo c'è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, edizione del lunedì: il fisco cambia due volte al giorno, il progetto di semplificazione che toccherà alcuni cardini del sistema come abuso del diritto, spesometra, accertamento, questi sono i progetti del governo che si prepara questa settimana ad avviare la riforma del fisco con un primo decreto anticomplicazioni. È una sfida nella quale nessuno c'è mai riuscito, semplificare il fisco, sembra già a dirlo un qualcosa di impossibile. Ecco qui tutti i dettagli, sono a pagina 3 con Andrea Maria Candidi e Giovanni Parente, la nuova sfida per un fisco più facile, in arrivo il decreto del governo che dovrà disboscare 270 imposte, questo è l'obiettivo, cercare di disboscare. E infatti sul fronte delle semplificazioni il Sole 24 Ore raccoglie a pagina 5 quelle che sono tutte le richieste maggiori da parte delle varie categorie: Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, i commercianti, i consulenti del lavoro, gli avvocati, i confesercenti, insomma tutte le richieste che hanno dettagliate le proposte di categorie per semplificare il fisco sono tante. Come al solito in questi casi basterebbe riuscire a fare almeno un 30, 40, 50% di semplificazioni e sarebbe già una manna dal cielo, visto che non si è mai riuscito, si è sempre detto di semplificare il fisco, risultato che le imposte sono sempre state un ginepraio sempre più complicato in Italia. Mentre per quel che riguarda la politica si interroga sul... non è stata una vera e propria intervista, ieri Berlusconi ha parlato con Libero, un qualcosa che poi è stata derubricata dal portavoce Bonaiuti come un colloquio al limite del paradosso e riferito a futuri programmi, si capisce bene, insomma. Sta di fatto che Berlusconi ha aperto di fatto al Partito Democratico per cercare di mettersi insieme e riscrivere la legge elettorale. E beh, è un qualcosa di politico davvero innovativo. Legge elettorale, Berlusconi apre al PD. Tutti gli articoli che trovate in Analisi Politica oggi sono prendono spunto da questa chiacchierata che Berlusconi ieri ha fatto con Libero. Il cavaliere alzare lo sbarramento, Monti è bravo, deve durare, l'apertura al Partito Democratico anche per il Corriere della Sera con Monica Guerzoni. Legge elettorale, Berlusconi chiama il PD. e i centristi sono in allarme. Chi sono più in allarme sono appunto i centristi e la Lega. Tanto che ha tuonato così Roberto Calderoli sabato scorso: Silvio crede di isolarci, ci provò già con Veltroni a fare un accordo, ma gli andò male, gli andrà male anche questa volta. E sentite Calderoli che cosa ha detto: se i nostri alleati pensano di farci fuori con la nuova legge elettorale, ricordo loro che, come abbiamo manifestato a Piazza Duomo, c'è anche Piazzale Loreto. Ah, però un'evocazione simpatica da parte di Roberto Calderoli: attenzione Berlusconi, c'è Piazzale Loreto. Insomma, in riferimento a Mussolini non c'è bisogno di aggiungerlo, no? Su questo il giornale ancora pare più informato riguardo alle mosse che starebbe pensando di fare Berlusconi. Ad Alberto Signore racconta questo retroscena, pagina 3, il Cavaliere lancia Fondazione Berlusconi. Dovrebbe nascere Fondazione Berlusconi, una associazione che avrebbe il compito intanto di organizzare il fundraising per il partito, cioè recuperare soldi, ma non solo strumento per raccogliere fondi per il partito, ma, dice Berlusconi, deve essere come un'azienda, meglio i manager dei politici. Insomma, Berlusconi starebbe facendo partire una sua fondazione, Fondazione Berlusconi, mentre dall'altra parte il Partito Democratico con Bersani mostra un po' di nervosismo su questo. Noi siamo leali al governo, ma non ci vogliono prese in giro, sia sulla riforma del mercato del lavoro, dove ha detto Bersani: altro che l'articolo 18 serve a scoraggiare gli investimenti in Italia, lo tsunami è già arrivato, spiega Bersani. Oggi uno che ha 30 anni, se ha un lavoro, mediamente ce l'ha flessibile, precario e sottopagato anche se ha una laurea. La realtà di oggi è questa. E poi anche sul tema della responsabilità civile dei giudici, di cui ci occuperemo alle 8.30, il Partito Democratico è molto innervosito dal fatto che sia stato introdotto contro il parere del governo questa responsabilità alla Camera. Vedremo al Senato che succede. Sta di fatto che questa è la situazione. Devo andare alle ultime notizie. Schettino torna oggi protagonista, perché solo il Messaggero peraltro fa una pagina su questo, pagina 15. Oggi al Tribunale del Riesame c'è la richiesta da parte della Procura di revocare gli arresti domiciliari e mandare in carcere Schettino, mentre gli avvocati difensori chiedono la liberazione di Schettino, che attualmente è ai domiciliari. Il PM: Schettino torni in carcere. E Cristina Mangani, su Cristiana Mangani, sulla prima pagina del Messaggero, fa sapere che i reati cumulati per i quali potrebbe scontare delle pene arrivano a 2697 anni di pena. Questi calcoli della procura, avete sentito bene, 2697 anni. Perché? Ci sono 34 cadaveri, 300 persone abbandonate sulla nave. La procura di Grosseto fa i calcoli per ogni passeggero coinvolto nel disastro della Concordia: 15 anni per omicidio colposo plurimo, 10 anni per disastro da naufragio, 8 anni per ciascuno dei passeggeri abbandonati e morti in conseguenza del naufragio. Fa un totale, secondo la procura, di 2697 anni che potrebbe rischiare di pena Schettino. Fa un po' ridere messa così, obiettivamente. 2697 anni. Vabbè, devo chiudere col titolo della Gazzetta dello Sport. Milan, Ibra, che fai? Ha tirato schiaffone a un giocatore del Napoli e si beccherà 3 giornate, secondo me, almeno. Quindi salta Juve-Milan. Rabbia Juve, invece, non capisco perché rabbia Juve. Per un rigore, ma tanto appunto pare di aver capito che lo scudetto è assegnato alla Juventus, pare che abbia già vinto, quindi non capisco perché rabbia. Comunque, 24 mattino. Siamo qui alle 8.21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora, nell'Italia dove la meritocrazia fatica un po' a farsi largo, c'è un giornalista americano che da tanti anni è in Italia che di fatto si è autocandidato alla direzione del TG1, il telegiornale di Rai 1, il telegiornale più importante, più istituzionale in Italia. Si tratta di Wolfgang Achtner, che saluto. Buongiorno Wolfgang. Buongiorno. Intanto vogliamo dare un breve curriculum: 62 anni e poi io mi fermo qui. Poi esperienze giornalistiche? Questo ancora no, a luglio allora. Nel mio passato ci sono 11 anni alla ABC News come reporter producer, a 8 alla CNN come corrispondente due anni alla Press TV come corrispondente, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro sono uno dei pionieri del videogiornalismo, quel tipo di giornalismo televisivo che si fa da soli, nel senso che il corrispondente si gira le proprie immagini, a volte monta anche da soli i servizi. Ho prodotto diversi documentari, sono anche docente universitario di giornalismo televisivo, l'autore dell'unico testo accademico completo sulla materia in italiano. Ecco, e perché ha scritto ai membri del CDA della RAI? Tra l'altro Antonio Verro la scorsa settimana qui ai nostri microfoni ha detto sì, l'ho ricevuta la sua candidatura, ma le autocandidature non mi piacciono. Sì, e perché certo. Ha scritto a Monti dicendo voglio fare il direttore del TG1? Che farebbe da direttore del TG1? Beh, la cosa più importante da dire che in Italia il giornalismo televisivo cosiddetto, perché chiunque sia mai stato all'estero, a prescindere da chi sia un giornalista, ma chiunque può fare un confronto si rende conto che quello che va in onda in Italia nei principali telegiornali e in particolar modo nel TG1 è propaganda e soprattutto è anche tecnicamente scarso. Quindi i cittadini italiani non hanno occasione di informarsi e questa è una cosa molto grave, anche perché l'informazione televisiva, secondo ciò che ci dice anche l'Istat, per una maggioranza degli italiani è non soltanto la fonte primaria delle notizie, sì, ma è l'unica. È l'unica, infatti. Ci si... Senza una buona informazione televisiva è impossibile che in Italia il sistema funzioni. Per esempio, io so che la prima cosa che farebbe il direttore del TG1, Wolfgang Achtener, è recidere il legame tra informazione e politica. Beh, vorrei dire meglio, non tanto tra informazione e politica, ma vorrei fare vera informazione, quindi non ci sarebbero più i pastoni e non ci sarebbero più certamente i panini cosiddetti, quei tipi di servizi dove l'opposizione viene schiacciato tra qualche cosa che viene detto da un presidente del Consiglio e poi uno dei leader della maggioranza, quindi in fondo messo in un modo che lo spettatore non dà ascolto a ciò che dice l'opposizione, no? Tutte queste macchinazioni non servono a informare. Il problema principale dei telegiornali italiani è che esistono proprio per far vedere le facce dei politici alle 8 la sera e non a dire agli italiani quello che veramente sta succedendo nel paese. Quindi io vorrei eliminare la parte dedicata alla politica in maniera passiva o che fa cattiva televisione e soprattutto eliminare il controllo della politica sull'informazione. Ma in Rai, questo viene deciso da loro. In Rai questo non è possibile, lo si sa. L'editore della Rai è la politica e quindi... Assolutamente sì, e in più sono persone incompetenti, questo lo posso dire in base a ciò che va in onda, e tant'è vero che la competenza non è richiesta. Abbiamo visto negli ultimi anni più volte direttori di giornali chiamati a lavorare nel telegiornale. Questo è qualcosa che all'estero potrebbe non potrebbe succedere mai, perché è l'equivalente di mettere un camionista a pilotare un jumbo, e posso assicurarti che se tu fossi uno dei passeggeri, sapendo che viene un camionista a pilotare il tuo aereo, qualche tensione, sì, qualche tensione ce l'avrei. Allora, intanto devo dire che la notizia, pochi giornali hanno diffuso questa notizia. Devo dire, però, c'è un movimento, si sa, ormai l'informazione non è monopolio di nessuno, quindi su internet, blog, ci sono anche dei politici, qualche movimento che hanno sponsorizzato questa candidatura. Questo fatto che tu hai detto, questo blackout imposto dai media tradizionali qui in Italia, quindi dai principali quotidiani e da tutti i telegiornali, è una cosa molto preoccupante, perché conferma ciò che dico da tanti anni, ovvero sia che l'informazione in Italia non è libera. In parte chi controlla questi giornali e vede la mia iniziativa come un attacco a una corporazione giornalistica, ed è anche vero, ma soprattutto e non si deve parlare di quello che riguarda la cabina di regia che controlla il sistema. Questo è contrario a ciò che dovrebbe fare un buon organo di stampa, a ciò che dovrebbe fare un buon giornalista, che è informare i cittadini riguardo a ogni cosa che succede che è di interesse pubblico. Comunque le candidature sono, la candidatura è partita, non so, Monti per esempio l'ha ricevuta, adesso c'è il premier Monti internazionale, sì, sobrio. Il punto era di far capire, e non è una provocazione ciò che io ho fatto, ma è una cosa seria, perché se vogliamo dare una mano anche a Monti o a chiunque sia il governo, se vogliamo cercare di fare qualche cosa in questo paese che dia un segnale di cambiamento, quello sarebbe un segnale importante, ma soprattutto riaffermare, non solo a chiacchiere come si fa di solito qui, ma riaffermare nei fatti che il merito conti, sarebbe un segnale, come dicevo, importante, ma soprattutto perché cominciando a fare informazione io credo sarebbe possibile cambiare molte altre cose qui in Italia. Finché l'informazione sarà controllata dai partiti non sarà possibile cambiare il paese. Succede al direttore Achtner, al TG1, che un politico chiama per dire vorrei intervenire per dire la mia, e la risposta sarebbe? Ma la risposta che darei a qualsiasi politico è: nel momento in cui verrà ritenuto opportuno la cercheremo noi, ma non più di questo. Dureresti 3 giorni alla direzione del TG1, Forse. Punto è questo: se si mette qualcuno che è autonomo e che può lavorare per conto suo, allora ha senso, altrimenti tanto vale che mettono uno dei soliti fantocci che farà ciò che gli dicono al telefono. Cioè questi sono, questo, no? questi sono fantocci oggi, sono... Ma sì, sono dei fantocci nel senso che sono manovrati da fuori, sono eteromanovrati, i fili si vedono da dove arrivano dai partiti, quindi sono persone che fanno propaganda, questo è un fatto innegabile, quindi non è che sono lì per tutelare gli interessi dei cittadini italiani. Tra l'altro io sono convinto che chiunque vedesse un telegiornale ben fatto capisce anche di pancia la differenza tra informazione e propaganda. Al di là del fatto che si potrebbe migliorare moltissimo la qualità di ciò che va in onda, io so che ci sono in Rai degli ottimi professionisti e che queste persone non vengono messe in condizioni di lavorare, anche perché i telegiornali non si fanno concorrenza tra di loro reale come prodotto, solo a volte come sponsor politico, ma... E queste persone potrebbero avere modo di lavorare, ritrovare il proprio orgoglio, la RAI potrebbe riacquistare credibilità e i cittadini italiani potrebbero per la prima volta avere un telegiornale degno del nome. Questo finora non c'è mai stato. Due ultime cose, risposte nessuno, cioè ufficiali nessuno. No, nessuno. Ma è chiaro, la forza del sistema, tocca dire qui che in Italia... c'è una specie di sistema feudale dove il potere viene gestito limitando l'accesso all'informazione, all'istruzione, al finanziamento, e ovviamente io non mi aspetto che questo CDA risponda, perché loro fanno il loro sporco mestiere, che è quello di accordarsi con i politici e di fare ciò che gli dice di fare chi li ha messi lì. Ma il punto è proprio questo: se vogliamo cambiare questi meccanismi, se vogliamo aprire l'informazione, serve un altro modo, serve qualcuno che sia competente, che sia indipendente dai partiti e che voglia fare giornalista e non diciamo il passacarte per la politica. Allora, intanto Wolfgang, in bocca al lupo, dovessero rispondere, noi portiamo avanti se possibile non tanto questa autocandidatura, ma il fatto di dire si è proposto, ha dei meriti, ha un curriculum molto importante, vuole cambiare il modo di fare informazione e politica, il rapporto con la politica al TG1, vediamo come andrà a finire, se ci saranno anche mai risposte. Intanto in bocca al lupo a Wolfgang Achtner per essere stato con noi e grazie. 24 mattino. Siamo qui alle 8:37 minuti, allora torniamo a parlare di responsabilità civile dei magistrati dopo che l'emendamento del leghista Pini la scorsa settimana è passato alla Camera, ora ci sarà la discussione al Senato. Si può, per renderla molto molto banale, così poi i nostri ospiti ovviamente andranno nello specifico. Intanto c'è da dire una piccola cronistoria: ci fu un referendum nel quale gli italiani fecero trionfare sì con l'introduzione della responsabilità civile delle toghe nel 87, poi ci fu la legge Vassalli nel 1988, quella che ora stabilisce che un magistrato per colpa grave o dolo paga, se fa una colpa grave o un dolo. L'emendamento Pini vuole modificare parte di questa legge Vassalli e prevede che il cittadino possa agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali anche in caso di violazione manifesta del diritto. Allora ne parliamo con il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, il sindacato dei magistrati che sono già, posso dirlo, sul piede di guerra contro questa norma, Giuseppe Cascini, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Saluto anche l'onorevole Enrico Costa del Popolo della Libertà e capogruppo in Commissione Giustizia del PDL, buongiorno onorevole Costa. Buongiorno. Senta Cascini, intanto a me colpisce molto, c'è molto il paragone in questi giorni tra i magistrati e altre categorie professionali, per esempio i medici giù hanno in mano tutti i giorni la vita delle persone, come anche i magistrati, decidendo della libertà o meno delle persone. I medici, se sbagliano, pagano, possono andare anche a processo, possono venire condannati. Il presidente, il vicepresidente del CSM Vietti al Corriere della Sera ha detto: ma il magistrato è un unicum. Perché è così? Cascini. Una differenza enorme fra i magistrati e i medici, per il semplice fatto che un magistrato deve decidere tra due persone chi ha torto e chi ha ragione, e quindi tutte le decisioni di un magistrato, a differenza di quello che accade per i medici che sperabilmente non incorrono sempre in errori, tutte le decisioni del magistrato danno torto a una delle due parti, quindi ci sarà sempre una persona insoddisfatta. Allora, pensare che la persona che ha perso la causa possa agire nei confronti del giudice, chiedendo un risarcimento al giudice per la decisione che viene reputata sbagliata, significa da un lato moltiplicare all'infinito le cause, perché la persona che ha torto continuerà a fare causa al giudice che gli dà torto all'infinito, finché non troverà un giudice che gli dà ragione, e altera il meccanismo di funzionamento della giustizia. Ma non è un unicum il magistrato, questo vale per tutti i funzionari pubblici. Non si può fare causa al vigile urbano che ci ha fatto una multa, non si può fare causa all'ispettore delle tasse che ci fa un accertamento, non si può fare causa al poliziotto che fa un accertamento su di noi. Si fa causa allo Stato quando, per i comportamenti dei funzionari pubblici. Sì. Poi lo Stato nei confronti dei propri funzionari ha una serie di strumenti per far valere la loro responsabilità. L'azione di rivalsa, che è prevista per i magistrati e per gli altri funzionari dello Stato nei casi di dolo o colpa grave, l'azione disciplinare e altri strumenti per censurare comportamenti illegittimi dei funzionari. Però su questo, cioè lo strumento di rivalsa, io credo che proprio lo stesso onorevole Costa abbia dato dei dati e dei numeri la scorsa settimana che hanno fatto un po' sobbalzare. Vorrei sapere se sono veri o contestati poi da Cascini. Costa, lei ha detto, è vero, c'è la legge Vassalli che prevede in caso di dolo colpa grave che ci si rivalga poi da parte dello Stato sul magistrato, ma sono casi limitatissimi. Quanti? Lei, Costa, ha dato anche dei numeri la scorsa settimana. Io leggo quello che ha scritto l'Avvocato Generale dello Stato audito dalla Commissione Giustizia della Camera. Dalla prima applicazione della legge ad oggi risultano proposte poco più di 400 cause. Di queste 400, ben 253 sono state dichiarate inammissibili con provvedimento definitivo. 49 sono in attesa di pronuncia sull'ammissibilità. 70 sono in fase di impugnazione di decisioni di inammissibilità e 34 sono state dichiarate ammissibili. Di queste 34 dichiarate ammissibili ne risultano pendenti 16. Sì. Delle 18 già decise, 14 risultano respinte e solo in 4 casi vi è stata condanna dello Stato. Quindi per riassumere, il dato che più mi interessa è questo: ci sono solo 4 casi di magistrati che di fatto hanno pagato per dolo colpa grave, sui quali lo Stato si è rivalso. No, che hanno pagato non si sa, ha pagato lo Stato in questi 4 sì. casi, perché poi lo Stato ha possibilità di rivalersi sul magistrato, ma attenzione, non per tutta la cifra che viene pagata. Sì, per una parte dello stipendio. Una parte molto limitata, nei limiti di un terzo di annualità di stipendio del magistrato. Allora Cascini, lei, questa è la contestazione che si fa, trincerandosi dietro questa legge Vassalli, il risultato che i magistrati in realtà pagano rarissimamente, e pensare che ci siano stati solo 4 errori per dolo o colpa grave in tanti anni anche vorrebbe dire che siete una categoria perfetta, voglio dire. No, vuol dire, guardi, che è molto difficile accertare l'errore giudiziario, perché una decisione, non a caso ci sono più gradi di giudizio, una decisione può essere ribaltata in secondo grado o in Cassazione, senza che necessariamente questo significhi che si è trattato di un errore. Noi abbiamo una concezione strana del sistema giudiziario, immaginiamo che si possa misurare con il centimetro a metri e stabilire oggettivamente se una cosa è vera o falsa. ma l'umanità si è affidata a degli uomini che hanno studiato le leggi per decidere dei torti e delle ragioni, della verità o della falsità delle cose, sapendo che questo è affidato in qualche modo alla natura umana senza che sia possibile oggettivamente dire se è vero o falso. Quindi pensare che poi, finita una causa e accertata la verità o la giustizia di una cosa, si possa fare un'altra causa per accertare se quel giudice ha sbagliato è un paradosso. Per questo, guardi, che non esiste in nessun paese al mondo questo sistema, sì. Il sistema di un'azione diretta. Ora l'onorevole Costa diceva, però i magistrati sono chiamati a pagare per il limite massimo di un terzo dello stipendio. Ora io le faccio una domanda, una signora poverissima abita vicino a una multinazionale che inquina terribilmente l'aria che questa donna respira, un giudice chiamato a decidere la causa fra questa donna e la multinazionale, se corre il rischio di essere citato in giudizio dalla parte che ha torto, secondo lei sarà disposto a dare ragione alla donna, sì, indipendentemente dalla verità, allora, dei fatti? Guarda, che pensi, in fondo rischio di meno a dar ragione alla multinazionale? Guardi, questa che è l'obiezione, che effettivamente è l'unico aspetto che nell'editoriale che ieri mi ha colpito di Vittorio Feltri, e su questo l'onorevole Costa vorrei coinvolgerla subito dopo però le informazioni sul traffico, che Vittorio Feltri ha detto effettivamente su questo un problema i magistrati lo hanno posto, e cioè se ci toccate nel portafogli non avremo più la lucidità, la freddezza per compiere il nostro dovere di indagare in maniera corretta, e soprattutto in un esempio citato questo da Cascini, laddove c'è un potente dal punto di vista economico e magari la controparte che è meno potente dal punto di vista economico, il timore del magistrato è che nel dubbio do ragione a chi poi non avrà molti strumenti per rivalersi con un'eventuale causa. Allora, onorevole Costa, come la mettiamo il fatto che i magistrati dicono ma se ci mettete questa pressione economica come facciamo a decidere con lucidità? Ma come fa a decidere di operare con lucidità un medico che comunque ha la pressione di poter sbagliare? Ecco, questa considerazione, devo dire, può valere per tutti quanti, può valere per l'avvocato che deve scegliere una strada piuttosto che un'altra. Ci ha spiegato però Cascini, secondo il suo punto di vista, che sono diverse le situazioni, cioè il magistrato in ogni causa deve dare ragione a uno e torto a un altro, quindi si produce il medico deve fare delle scelte che possono salvare la vita, oppure potranno poi essere considerate dopo come delle scelte errate. Io su questo piano non aderisco, io invece considero dal punto di vista sistematico l'azione diretta possa essere rivista, e possa essere rivista nell'ambito di una riforma costituzionale, perché ecco, questo è una considerazione che ritengo condivisibile da parte dei magistrati, che la legge ordinaria non può in questo senso intervenire in modo così deciso, quindi può estendere l'area della responsabilità ma non può andare ad aprirsi ad una responsabilità, chiamiamo un'azione diretta nei confronti del magistrato. Sì. Intanto, se volete intervenire 800 24 00 24, Cascini, voi però avete posto subito un punto che è questo: siamo pronti allo sciopero se questa norma viene approvata anche al Senato. Ecco, questa è una posizione che molti cittadini poi interpretano come una difesa di casta, no? Se succede questo, noi siamo pronti a fare un bello sciopero generale. Guardi, noi abbiamo scioperato pochissime volte nella storia di questo paese, nonostante avremmo avuto più volte argomenti per scioperare, visto il clima che si è creato nei confronti della magistratura negli ultimi anni. Lo sciopero non è uno strumento di lotta sindacale per noi, è uno strumento di testimonianza che abbiamo usato pochissime volte e con grande attenzione. Noi vogliamo far capire che ciò che viene a rischio con questa riforma non è l'interesse del singolo magistrato, lo vedete anche voi, ci sono dei limiti al risarcimento, ci sono comunque le assicurazioni, in qualche modo la corporazione può trovare una soluzione al suo problema. Noi pensiamo seriamente che qui ci sia un rischio per il buon funzionamento della giustizia e per l'interesse dei cittadini, perché sarà più difficile dare ragione alla parte debole, sarà più difficile indagare nei confronti dei poteri forti, sarà più difficile che un magistrato renda giustizia con serenità. Voi ancora una volta fate l'esempio dei medici, ma uno dei rischi che si sta correndo proprio nella medicina e sulla quale si riflette molto è quello della creazione di una medicina difensiva. Il medico che prescrive troppi esami, troppi accertamenti, perché ha paura delle conseguenze di un'azione risarcitoria. Il mestiere del giudice invece è sempre esposto a questo rischio, e siccome però il giudice ce l'ha l'alternativa, ha l'alternativa di dare ragione alla parte per la quale rischia di meno, allora questo sistema dell'azione diretta, ripeto, non esiste in nessun paese al mondo, ci sarà un motivo per cui nessun paese al mondo ce l'ha. Senta, che risponde a quelli che dicono i magistrati che sbagliano, citando per esempio il caso Tortora, com'è, non pagano mai, magari hanno avuto anche avanzamenti di carriera e non hanno, e sono ancora al loro posto? Guardi, noi abbiamo chiesto noi di inserire dei meccanismi di valutazione di professionalità, sono 5 anni che sono stati inseriti su richiesta dell'Associazione Nazionale Magistrati, oggi abbiamo un controllo di professionalità ogni 4 anni, i magistrati che sbagliano, i comportamenti sbagliati devono essere sanzionati con altri meccanismi, noi non abbiamo bisogno di fare causa al magistrato che ha sbagliato, abbiamo bisogno di individuare quei magistrati, pochi ce ne sono, che hanno un livello di professionalità più basso dell'accettabile, e quei magistrati vanno allontanati, puramente e semplicemente non devono esercitare giustizia, e questo è il vero rimedio, avere un sistema di controlli sulla professionalità e disciplinare che funzioni effettivamente. Noi lo abbiamo chiesto, l'abbiamo introdotto, ci stiamo lavorando con serietà e con impegno, perché vogliamo, siamo i primi a avere interesse ad avere una magistratura professionale ed attrezzata. Allora, io fatemi sentire Marco da Milano, che ci ha chiamato l'800240024. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Guardi, io sono un primario e docente universitario. Sì. Noi medici siamo, credo, all'ultimo stadio dell'amarezza e della delusione rispetto all'argomento contenzioso. Però vorrei lanciare un monito ai personaggi che rappresentano questa fortissima lobby, il dottor Vietti, il dottor Cascini. Non ci chiamate in causa, non vogliamo essere paragonati a voi. Vede, noi anche perché lui proprio dice che non è la stessa cosa, cioè sì, in genere... ma infatti non vogliamo paragoni, perché vede, noi alle 7:30 del mattino timbriamo il cartellino e siamo in sala operatoria. In sala operatoria spesso abbiamo una frazione di secondo per decidere come chiudere un ferro, spostare una mano, con la vita del paziente che può svanire per un'incertezza. Poi noi abbiamo la fortuna di lavorare nell'unica nazione del mondo dove esiste l'azione penale per atti non dolosi, per cui grazie, lasciateci in pace, non facciamo paragoni. Va bene, grazie Marco. Onorevole Costa, politicamente molti l'hanno letta anche così, c'era Berlusconi e finché c'era Berlusconi c'erano scontri epocali, quotidiani con la magistratura, e c'è voluto un leghista, l'emendamento Pini, certo con i voti, voto segreto, quindi anche con i voti di molti parlamentari bipartisan, per far passare una norma che magari Berlusconi avrebbe voluto da un bel po' di tempo. È un paradosso politico questo? È un paradosso sicuramente, però questa norma era in Commissione Giustizia dal metà del 2010, giugno del 2010. Ebbene, la Commissione Giustizia è stata riunita, non la riunisco io la Commissione Giustizia, su questo punto solo 2 volte più in una circostanza per le audizioni. Quindi al di là del fatto che ci fossero molte proposte di legge, ci fosse un'intenzione di discutere, mi pare che non ci fosse da parte della Presidenza della Commissione la volontà di insistere e di affrontare l'argomento, salvo poi arrivare in aula e sentirci dire questa è una norma sistematica, va contestualizzata meglio, va resa migliorabile, va migliorata in un provvedimento che sia più ampio che su. Sì. Sia più, ma deve essere cambiata al Senato secondo lei? Perché questo è guardi, io le dico che forse nel merito può essere cambiata, ma è chiaro che se la questione viene irrigidita in modo così forte da parte del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori, ci può essere anche il percorso di approvarla così com'è. Di andare una sorta di prova di forza politica. Io intanto vi saluto da Giuseppe Cascini, segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, e l'onorevole Enrico Costa del Popolo della Libertà, e ci troviamo domattina. 11.500 euro netti in tasca per un parlamentare non credo che sia una cifra esorbitante. Tutti i parlamentari stanno 3 giorni a Roma, io sono al di sopra della media delle presenze. Io dalla mia attività di parlamentare, con i tagli ultimi, se va bene, riesco a prendere 300 euro. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna, noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire.